sì, ne ho coscienza, ma è 21 anni che son qui. Non mi oriento con sapienza, cognizione di realtà. Tra più pare in cui incappare, fra vaghezza ed impietà. Vivo come in un film, in parvenza io che scrivo. La trama è vista estatica in realtà. E cercare di guardare nel profondo di sto mare, abissa prati nello sguardo di chi non ne sa. Ma se si perderà la connessione causa-effetto, è trauma della mente che è eclissato da vana speculazione. Di fatto non si vede mai l'effetto del cervello infetto da mistificazione. Eppure sì, è 21 anni che sono qui. Hai voglia che mi metto contro la televisione? Mi cimento nel fraseggio per vincere il discorso. Ma per vincere la mole deve essere più antica anche del tempo che è trascorso. Allenata dal rimorso ad aver perso le parole, il controllo su di esse in questo terzo labirinto, nello stallo delle menti più complesse, fra le messe mediatiche e immediate intrighi delle facce dinatiche, tra scoreggia di cultura e pillole di abbiura per cervelli non plagiati dalle pratiche di matura autocensura. Siamo stati impostati, spostati da orizzonti limpidi, ci rimangono lampidi, coscienza poco languidi. Eppure sì, è 21 anni che sono qui.